Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta. I get a feeling that I never had before. No, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera e ben sintonizzate. Siamo di nuovo qui a farci reciproca compagnia. Quella che ascolterete tra poco è la nostra 181esima trasmissione. Ed oggi qui in studio siamo Claudia e Lucilla. Inoltre ci aiuterà al mixer l'insostituibile Caterina. E possiamo dire che c'è una nuova entry che sta ascoltando e sta mixando insieme a Caterina ed è Anna. E vai. Vai Anna. Allora, l'argomento di questa trasmissione è elezioni del 9 e 10 aprile 2006. Faremo alcune considerazioni, frutto della discussione redazionale, e vi presenteremo alcuni dati sulla rappresentanza istituzionale in Italia e in Europa. Vi leggeremo un articolo di Bianca Pomeranzi sulle quote rosa e vi aggiorneremo sulla situazione svedese e sulla nascita del partito di iniziativa femminista. Vi ricordiamo anche, a questo proposito, che avete la possibilità di intervenire a questa trasmissione attraverso l'invio di SMS al nostro numero di cellulare che è 338 41 46 682. Vista l'entità dell'argomento, ci rendiamo conto che forse un messaggio potrebbe essere troppo sintetico e allora vi ricordiamo che potete scriverci indirizzando la vostra mail a contatti@clrbp.it oppure scriverci a CLR presso Centro Femminista Separatista, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Adesso però ascoltiamo insieme un brano musicale. Allora, proseguiamo con la trasmissione e con un piccolo chiarimento. Ovviamente non parleremo di votazioni sì, votazioni no, andate o non andate, sono fatti che non ci interessano. Quello che vogliamo fare è un'analisi della situazione, sempre dal punto di vista della posizione delle donne nell'ambito delle istituzioni e quindi che cosa significa. Allora, e per questo vi diciamo che non ci interessa veramente, o cos'è che ci interessa veramente di questa campagna elettorale. I programmi dei due schieramenti poco si discostano l'uno dall'altro, i vari esponenti di spicco più che parlarne preferiscono la rissa e gli insulti, tipico comportamento dei maschi tronfi e autoreferenziali. Difficile rintracciare nei loro discorsi un sostanziale impegno nell'ambito della politica sociale relativamente alla volontà di garantire pari diritti alla popolazione per una qualità di vita accettabile e dignitosa. Abbiamo parlato più volte nelle varie trasmissioni di precariato, diritto al lavoro ignorato, differenze tra nord e sud del paese, effetti della globalizzazione, povertà e potremmo aggiungerne altri come diritto alla casa, allo studio, alla salute, all'informazione e così via. Ma le donne e la qualità di vita che le riguarda sono ancora più irrintracciabili. Diritto al lavoro e alla salute, alla sicurezza rispetto alla violenza domestica. Quale programma parla di pari opportunità? Vogliamo ricordare la vicenda delle quote rosa e l'iter ridicolo che ha accompagnato tutta questa faccenda. Lo faremo tanto per ricordare la trasversalità che attraversa il Parlamento circa la misoginia e la volontà di schiacciare e sfruttare le donne nel nostro bel paese. E ricorderemo anche qualche provvedimento d'Oltralpe, tanto per capire che un altro modo è possibile. Ma procediamo per gradi e passiamo dunque in rassegna alcuni argomenti più o meno alla ribalta dei media, con l'avvertenza d'uso, come si dice per i farmaci, di stare attente a come le notizie ci vengono propinate e quindi alla metacomunicazione del patriarcato. Per metacomunicazione intendiamo quel particolare modo di passare l'informazione che va dai toni usati nei TG all'impaginazione utilizzata dai giornali con tutte le gradazioni del caso. Per la cronaca recente, la ministra delle pari opportunità, la signora o l'onorevole Prestigiacomo, si è battuta per far approvare e per far utilizzare sin da queste votazioni di aprile il DDL meglio noto come quote rosa, che prevedeva un'alternanza di candidati uomini e donne con disposizioni sanzionatorie per i partiti che non si sarebbero attenuti, tipo decurtazione delle spese elettorali. Ma la cara ministra ha subito un autogol dal proprio partito e dalla propria coalizione. E sentite cosa dice Luciana Sbarbati dei Repubblicani Europei a questo proposito. La volontà, ed è la Sbarbati che parla, la volontà di garantire una pari opportunità alla rappresentanza politica tra uomini e donne non c'è mai stata e non c'era bisogno di usare la lente di ingrandimento per verificare. Prosegue poi la Sbarbato dicendo: al Parlamento maschile, che è sempre stato contrario, salvo eccezioni, va rimarcato che è fuori dalla storia nella sua ostinazione a voler conservare lo strapotere sessista e maschilista che ha trovato la sua massima espressione nella legge elettorale varata dal governo della CDL, che affida tutte le decisioni ai vertici dei partiti composti quasi esclusivamente da uomini. E prosegue ancora la Sbarbati, vi siete accorti che la piccola Austria ha varato un governo con il 50% dei ministri donne? Che in Afghanistan hanno eletto circa il 30% di donne? E financo la Liberia ha eletto un presidente donna? Alle donne, infine, conclude la Sbarbati, dico che forse è ora di combattere diversamente per la parità. e noi aggiungiamo alla buon'ora. Ma come andrà a finire per le prossime europee amministrative? Si aprirà una caccia grossa alle candidate? Sandra Bonsanti, sulla situazione, che è una toscana, sulla situazione della rappresentanza istituzionale traccia una mappa a dir poco sconfortante che riguarda l'avanzatissima Toscana, per l'appunto, e ci viene a dire che su 287 comuni ci sono solo 28 sindaci donna. Una bella roba. Arcidonna ha presentato a Roma, presso la Casa Internazionale delle Donne, i risultati di un osservatorio che sta monitorando la presenza femminile nelle istituzioni, nella politica e nell'economia, nell'ambito del progetto comunitario Equal, il cui programma specifico si chiama Esserci. Esserci o rintracciarci, diremmo noi, vabbè, ci sono tracce di donna, va bene. In particolare esamina il fenomeno in 4 paesi europei: Italia, Spagna, Austria e Olanda. Ed ecco i dati, sono forse un po' noiosi, però aprite bene le orecchie perché sono interessanti. Al Parlamento europeo l'Italia ha il 19% di presenza femminile contro una media europea, sentite un po', del 30%. E nei governi? L'Italia il 10%, la Spagna il 10% nel governo italiano di presenza femminile, la Spagna il 47%, l'Olanda il 31% e l'Austria il 20%. Vi risparmiamo le percentuali a livello delle Camere ed in relazione ai singoli partiti. Un ultimo sguardo relativo all'occupazione di cariche all'interno delle banche. Se le occupate sono il 37,5%, le impiegate rappresentano il 47,2%, quindi una buona media. I quadri il 21,5%. E le dirigenti? Vogliamo aprire delle scommesse? Il 4,1%. Allora, non crediamo che siano necessari commenti o analisi particolari da parte nostra. Ci piace semmai ricordare che in Spagna Zapatero, che non è una donna, ha un governo con la metà dei ministri donne. Allora, vi diremo in più che adesso mandiamo un pezzo di musica e poi vi leggeremo un articolo di Bianca Pomeranzi a proposito delle quote rosa. Questo articolo è del novembre del 2005, quando sulle quote rosa si faceva un gran baccano. We'll be right back. Allora, come avevamo preannunciato prima, leggeremo adesso un articolo scritto da Bianca Pomeranzi dal titolo Le quote rosa sono una trappola, serve un nuovo patto per donne e uomini. Il problema della presenza delle donne italiane nella politica istituzionale, maldestramente definito delle quote rosa, costringe ad una riflessione approfondita non solo chi opera nei partiti, ma anche tutte e tutti coloro che nel corso degli ultimi 30 anni hanno lavorato per modificare le relazioni pubbliche e private tra donne e uomini in Italia, in primo luogo le femministe. L'Italia si trova attualmente in una emergenza democratica che non ha pari in tutte le altre democrazie europee e occidentali. Il governo per 5 anni consecutivi ha lavorato per dissolvere il patrimonio di saperi e di pratiche politiche portati avanti, a partire dal secondo dopoguerra, dal movimento delle donne, ma soprattutto nel corso degli anni 70 dal movimento femminista. Infatti, la modalità populista dell'iter e il mito dell'antipolitica hanno messo in crisi i meccanismi di concertazione e di dialogo sociale su cui era cresciuta la partecipazione politica delle donne italiane che, pur mantenendo percentuali molto basse all'interno dei meccanismi di rappresentanza sin dal 1946, avevano mantenuto un potere di concertazione, conservando in questo modo una forma di empowerment. Dopo la conferenza ONU sulle donne di Pechino, inoltre, l'Italia aveva cercato politiche istituzionali che introducessero un'ottica di genere nella vita politica italiana. Eppure il percorso fatto dalle donne nelle istituzioni si è dimostrato troppo fragile per resistere alla spinta d'urto del berlusconismo e per garantire da un arretramento che si è puntualmente verificato nel corso degli ultimi 5 anni nel completo disinteresse di tutta la classe politica. Tutto questo mentre il clima generale in Italia e nel mondo, improntato ad un mercantilismo aggressivo e, dopo la seconda guerra all'Iraq, decisamente avviato all'utilizzo della guerra come forma di governo, ha fatto sorgere problemi etici e culturali sul concetto di libertà, responsabilità e giustizia, mentre le formule liberiste acuivano i processi di precarizzazione del lavoro, rendendo incerto il futuro di tante giovani, soprattutto nel sud dell'Italia. A tutti questi problemi il governo ha risposto con un appiattimento su posizioni conservatrici, ignorando il valore sociale, politico ed economico della presenza delle donne nella vita collettiva, mentre nei media, e in particolar modo nella televisione, veniva data priorità a stereotipi di donne rivendicative e caricaturali, espressioni viventi del forte disagio di un'Italia politica sempre più dominata dalla debolezza maschile mascherata da macismo. Solo una debolezza maschile così radicata poteva far precipitare il nostro paese agli ultimi posti delle classifiche internazionali per la presenza delle donne nelle istituzioni di rappresentanza, creando un ulteriore problema di immagine al nostro paese. D'altro canto, lo stato attuale del mondo e gli eventi che si sono succeduti dopo l'11 settembre 2001 inducono a riflettere sulla parola democrazia, che sembra aver subito un complesso processo di eterogenesi dei fini che la porta a coincidere spesso con la supremazia del più forte. Il XXI secolo, al suo nascere, sembra volere donne nuovamente oggetto di tutela e non più soggetti di trasformazione, poiché insiste nell'ignorare la ricchezza conoscitiva e soprattutto politica delle differenze, e in primo luogo la differenza sessuale che le attraversa tutte e costituisce il fondamento di ciascuna civiltà. In questo contesto l'Italia, che aveva costruito gli ultimi 30 anni della sua storia tenendo insieme le nuove esigenze di libertà femminile e la tradizione dell'emancipazionismo progressista e cattolico, non ha saputo, proprio all'inizio del nuovo secolo, fornire un contributo di idee e di esperienze alla crisi che il mondo stava attraversando. Il silenzio dell'Italia in ambito internazionale corrisponde al silenzio delle libere voci di donne nello spazio pubblico nazionale. A questo occorre reagire con una nuova politica e non solo con le formule istituzionali. Per questo è necessario non cadere nella trappola delle quote rosa. Dire sì al decreto legge che il governo, come al solito, annuncia ai media di voler presentare ma non presenta mai nei luoghi istituzionali, è un arretramento inaccettabile rispetto alla crescita delle donne italiane che già adesso si trovano a dover affrontare battaglie di retroguardia. Sarebbe di fatto un'operazione di ceto politico femminile aperto ad un accordo di palazzo e incapace di ascoltare chi non sta nella sempre più ristretta piazza politica e mediatica. Oggi, a pochi mesi dalle elezioni, per quello stesso ceto politico sarebbe molto più utile guardare alla storia recente dell'Italia e capire così che la presenza delle donne nello spazio pubblico è un problema non di quote, ma di democrazia, e che accanto agli strumenti istituzionali, che comunque non possono essere ridicolmente inferiori alle medie occidentali, occorre ristabilire la possibilità per le donne di esprimere liberamente una propria visione della congiuntura che l'umanità planetaria si trova ad attraversare. In questo senso l'Italia potrebbe creare una interessante interlocuzione con il governo spagnolo, senza appiattirsi sulle sue pur coraggiose scelte, ma lavorando sia sul piano della ripresa del dialogo sociale e della capacità negoziali delle donne nello spazio pubblico che nel reliquiario della rappresentanza, come ha fatto Zapatero. Ok, quindi ringraziamo Bianca Pomeranzi per questo articolo che è di novembre, come vi abbiamo ricordato, ma che però per noi è ancora estremamente attuale. Allora, quando diciamo un altro modo è possibile, ci riferiamo alle battaglie di civiltà che le donne e gli uomini possono e debbono fare, ma a partire dalla consapevolezza che nel mondo esiste il sessismo, che ci riguarda, che attraversa tutte le culture e tutte le organizzazioni di governo, che si basa sullo sfruttamento di un sesso sull'altro e dunque è il fondamento delle economie, che attraversa le menti e le coscienze, substrato inconsapevole dei nostri atti. In altre parole, esiste il cosiddetto patriarcato femminile. Ora, non stiamo tanto a spiegarvi oltre, ma vi faremo delle trasmissioni sul patriarcato femminile, cioè su quello che le donne portano come cultura degli uomini e lo portano avanti a discapito di se stesse e delle altre donne. All'orizzonte di questo sconfortante scenario si profila un nuovo partito e voilà, abbiamo finalmente in Italia il Partito delle Donne, che si chiama Donne d'Europa, articolo 51. Mo, ci siamo chieste qualche cosa noi, perché abbiamo già vedete dei manifesti, il Partito delle Donne, wow, avevo detto, e siamo andate a cercarci qualche notizia. E lo sconforto si aggiunge allo sconforto. Cosa vogliono, che propongono? Definiscono così il loro status. Un progetto trasversale. È la prima e unica realtà politica italiana super partes, che unisce la sinistra alla destra, e già qui mi viene l'orrore, che non investe denari, chissà con quale cose vanno fuori, tuttavia chiede il coraggio di esserci per scrivere una pagina rosa nella storia della Terza Repubblica Italiana, e già mi sento col fiocchettino al collo. Ora io, grazie alla Dea, non voglio né il fiocco rosa né il fiocco azzurro, mi va bene un giallino o anche un verdino, va bene? Va bene, giustamente ricorda la nostra indispensabile Caterina che il fiocco nostro, essendo noi tutte lesbiche, è viola. Allora, fin qui sembra il foglietto che si trova nei cioccolatini, ma andiamo ad approfondire. Secondo quanto dichiarato dalla segretaria nazionale Daniela Pastore, e sono andata a cercarmi anche lei per la cronaca, è un'affermata architetta, e la presidente nazionale Adriana Padovano Spano, psiconumerologa, non mi chiedete che cos'è, ma è una nuova disciplina, il loro partito costituito e regolarmente registrato nel gennaio 2003, candida il 70% delle donne e il 30% degli uomini. E voilà, la frittata è rivoltata. Risponde ai principi di etica, trasversalità e soprattutto femminilità. E quindi non so se si mette il rossetto. E punta all'attuazione concreta dell'articolo 51, che è all'interno della Costituzione, che è stata recentemente modificata e che sancisce il principio della parità di genere, a cominciare dalle istituzioni. Ma i valori ribaditi dalle rappresentanti citate sono quelli della famiglia e del volontariato, sostegno alla famiglia con riconoscimento della centralità della donna nel suo ruolo di madre, famiglia come luogo della parità. Vi ricordate, in altre trasmissioni noi abbiamo detto che la famiglia è il luogo dello sfruttamento, della repressione delle donne e dei bambini. Che proposta geniale! Ma come mai non ci abbiamo pensato prima noi al luogo della parità nella famiglia? Anni di femminismo non ci hanno insegnato proprio niente. Allora, probabilmente propongono l'eventuale retribuzione alle casalinghe e via discorrendo. Ora non so cosa dire di più su di loro. Direi che possiamo interrompere. Un'ultima parola la vorremmo dire sul volontariato. Perché le signore del partito di donne d'Europa, eccetera, vedono il volontariato come valore positivo, senza un'analisi del perché nel mondo si debba ricorrere al volontariato come forma di risarcimento, anziché rimuovere le cause dello sfruttamento che generano le diseguaglianze sociali e di genere. Insomma, a noi sembra un crogiuolo di luoghi comuni, dove si fotografa la realtà per quella che appare e la soluzione dei problemi sembra essere depositata nel buon senso delle donne definite portatrici di pace. Oh. Per chi volesse approfondire ulteriormente, può facilmente trovare notizie tramite internet. L'impressione che ne abbiamo avuto, almeno dalle informazioni acquisite, e sicuramente sono parziali per carità, è che si sia di fronte ad una sorta di dame di San Vincenzo in versione istituzionale. Di altro contenuto ci sembra di poter dire sono le dichiarazioni di Franca Rame, che è candidata alle elezioni ma che sostiene di correre anche per la presidenza della Repubblica, e a un'intervista lei dice questo: io ho sempre detto che vorrei fare il presidente della Repubblica, e quando il giornalista Rodolfo Sala le chiede perché, Franca replica: mi piacerebbe perché dal Quirinale potrei battermi in modo efficace per fare spazio alle donne in tutte le assemblee elettive, dai consigli comunali al Parlamento. Le riempirei di casalinghe, quelle che devono far quadrare i conti con 800 euro al mese. È il solo modo di risolvere gli eterni problemi di bilancio che lo Stato ha. E questo pezzo è tratto da Repubblica del 28/2/2006. Allora, eccomi di nuovo qui, i messaggi questa sera languono. Io vi ricordo un attimo il nostro numero del cellulare per mandare dei messaggi, ne è arrivato soltanto uno, e è 338 4146 68. quindi mandateci dei messaggini. Dunque, vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87-900 MHz di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va in onda a partire dalle ore 21, mentre il martedì femminista e lesbico inizia alle ore 17 tutti i martedì. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Potete contattarci qui in radio allo 06 49 17 50 fino alle ore 22, oppure alla Casa Internazionale delle Donne presso il Centro Femminista Separatista ogni mercoledì, ad eccezione di questo perché per ragioni tecniche ci incontriamo in un posto dove dobbiamo visionare dei film. Quindi, però poi generalmente tutti i mercoledì ci siamo dalle ore 21 in poi. E il nostro numero è 06 68 64 201. Questo è anche un telefono fax e segreteria telefonica, oppure ancora potete scriverci a CLR presso Casa Internazionale della Donna, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Vi ricordiamo inoltre anche la nostra mail, che è contatti@clrbp.it, e il nostro sito web, che è www.clrbp.it. Ripeto ancora il numero per gli SMS, che è 338-4146-682. Ne aspettiamo magari qualcuno in più, anche per sapere come, che impressioni vi ha fatto questa trasmissione. Per il momento ringraziamo l'unica che ci ha scritto un SMS, più tardi leggeremo anche il messaggio che ci ha inviato. Lascio la parola a Claudia. E dal Partito Europeo delle Donne di casa nostra, con un volo pindarico, ma molto pindarico, andiamo nel freddo nord scandinavo ad incontrare Feministisk Initiative, iniziativa femminista tradotto senza vocabolario svedese. Primo partito... Grande Claudia, grande! È stato un lungo lavoro. Primo partito femminista fondato da Gudrun Schiman, noi diciamo, è scritto SCH, speriamo che si legga così, anche questo è stato un lavoraccio, ma la pronuncia me l'hanno detta, parlamentare ed ex leader del Socialist Left Party, ex partito comunista, abbandonato per, come lei stessa ha detto, manifesto maschilismo. Il partito Iniziativa Femminista è stato fondato con altre 14 donne nell'aprile 2005. Prima però apriamo una parentesi per acquisire qualche dato. Il gender gap, cioè la differenza tra la percentuale dei lavoratori maschi e femmine, in Svezia nel caso di donne con un figlio è del 9,8%, Italia 40,9%, e scende nel caso di due figli al 9,4%, in Italia sale 49,9%. Vuol dire che rispetto a quello che fanno i padri, meno di una su 10 madri rinuncia al lavoro per stare a casa. In Italia lo fa il 50%. 8 donne su 10 in Svezia hanno un impiego fuori casa. Sono la metà della forza lavoro complessiva, il tasso di disoccupazione femminile è di un punto più basso di quello maschile. In Parlamento le elette sono il 45,3, Italia 11 per ora, ma forse ancora meno dopo le elezioni. Meno in Italia anche di Namibia 22, Mozambico 25. Ma del resto siamo dietro questi paesi anche riguardo la libertà di informazione. Non c'è da preoccuparsi, su. E allora, perché fondare un partito femminista in codesto paese del Bengodi per le creature di sesso femminile? Ce lo spiega Gudrun Schiman nell'intervista rilasciata a Mara Cettura su Repubblica delle Donne del 4 febbraio 2006. Ma iniziamo subito oppure facciamo un pezzo musicale? Direi continuiamo. Continuiamo. Allora, ovviamente noi tifiamo per Gudrun in una maniera spasmodica, che ve lo diciamo a fare. Allora, La prima domanda che viene rivolta alla Gudrun, come tutte quante la chiamano, è: signora Schiman, siete state accusate di nascere come un partito vecchio, settario, e che non comprende simpatizzanti uomini. Quante trita e ritrita sta domanda! Risponde Gudrun: lo scorso aprile alla nostra conferenza c'erano 2200 persone, di cui il 10% erano uomini. Non siamo contro gli uomini, ma contro l'organizzazione patriarcale della società. Oggi il femminismo è subordinato alla politica tradizionale, che è una politica patriarcale. I partiti si sono storicamente formati su un vecchio modello, il conflitto di classe, quello tra povertà e ricchezza, e sono organizzati su una linea che va da destra a sinistra. Iniziativa Femminista vuole rompere con questo schema e quindi è aperto agli uomini solidali. E prosegue la giornalista nelle domande. Nel suo paese il Partito Socialdemocratico ha abbracciato la causa femminista degli anni 70, varando riforme nel campo della famiglia che sono considerate delle pietre miliari. Avete davvero bisogno di più uguaglianza? Che in Svezia abbiamo raggiunto la parità è un mito. Gli stipendi delle donne sono mediamente più bassi di quelli degli uomini e in termini di violenza sessuale abbiamo visto addirittura un incremento. Si può spiegare meglio? Secondo le ultime statistiche, a parità di lavoro, ruoli e ore, le donne guadagnano l'84% di quello che guadagnano gli uomini e il gap si allarga. È un fatto. Nei consigli di amministrazione la presenza delle donne è intorno al 12%. Inoltre, ogni volta che una professione si femminilizza, viene svalutata e pagata meno. Penso all'insegnamento a scuola. Una volta era pagato decentemente, adesso le professoresse sono quasi tutte donne e gli stipendi sono scesi. Accadrà lo stesso all'università. Cioè, se può dire tutto il mondo e paese? Allora, proseguiamo ancora con l'intervista perché è estremamente interessante. In Svezia la legge prescrive 480 giorni di aspettativa pagata per la nascita di un figlio da dividere tra i due genitori. Asilo nido dal primo anno. Inoltre è obbligatorio per gli uomini prendere il congedo di paternità. Vuole che le ricordi come siamo messi in Italia? Dice la giornalista. E risponde Gudrun: per quanto riguarda l'aspettativa, sono le donne ad avvalersi dell'83% del tempo a disposizione. Forse perché ricevono anche lo stipendio più basso e quindi conviene che rimangano a casa e lavorino gli uomini. Ma quando tornano a lavorare spesso entrano nel tunnel del part-time, occupato per il 75% da donne. Il risultato? Le donne non solo si assumono più responsabilità nei lavori domestici, non pagati, ma hanno stipendi più bassi che si traducono in pensioni più basse. Noi proponiamo che alle donne venga garantito il full time e che gli uomini siano obbligati a prendere metà dell'aspettativa. Ancora chiede l'intervistatrice: lei ha parlato di incremento della violenza e a questo proposito di tassare gli uomini. Secondo le ultime statistiche del Consiglio Nazionale per la Prevenzione del Crimine, lo scorso anno sono state riportate più di 22.000 denunce, un incremento del 10% rispetto agli anni scorsi. Di queste, 2.005 sono violenze sessuali. Nello stesso documento si esplicita che l'80% delle violenze in realtà non raggiunge neanche lo stadio della denuncia. L'ultimo rapporto della World Health Organization dice che globalmente uccide più donne la violenza maschile che il cancro. Non è preoccupante? Inoltre tutto questo ha costi sociali terribili tra spese mediche e carcerarie. E chi li paga? Soprattutto noi, le donne. È ora che gli uomini si assumano una responsabilità anche finanziaria collettiva. E noi, se vi ricordate, abbiamo fatto diverse trasmissioni anche su questo, eh? Allora, ma come mai questo incremento proprio in Svezia? non si riferirà per caso anche alle immigrate? Ecco, vede, il problema riguarda sempre le altre. Perché altre? Diverse da noi? Viviamo tutte insieme. La violenza mostra un conflitto alla base delle nostre relazioni tra chi è sopra e chi è sotto. Sa cosa dice la legge? Che le vittime devono provare che hanno resistito all'attacco, come se le donne fossero oggetti a disposizione del piacere maschile. Allora, andiamo all'ultima domanda, e mi sembra che questa intervista sia stata veramente molto interessante. È vero che volete abolire i nomi maschili a favore di nomi neutri e il matrimonio? Nel senso, volete abolire il matrimonio? Sciocchezze. Molti membri del partito auspicano una scelta più vasta che ora non si può fare perché si devono consultare liste di nomi maschili o femminili. Questo creerebbe anche meno problemi ai trans che vogliono cambiare sesso. Quanto al matrimonio, vogliamo allargarne il concetto, che le convivenze vengano riconosciute legalmente a prescindere dal genere e dall'orientamento sessuale. Ancora una volta la vera divisione che attraversa profondamente le nostre identità è quella di genere. Questo conflitto non riguarda una minoranza, ma metà della popolazione. È un problema di democrazia. Una volta scardinato, non ci sarà più bisogno di questo partito. Allora io approfitto della musica di sottofondo delle Kick la Luna con il brano No Compromise, che mi sembra insomma attinente alla serata, all'argomento trattato. Io volevo ringraziare Angela che nel suo primo messaggio ha detto: mi viene solo da dire che tristezza, buon lavoro, un abbraccio Angela, che è quella che ha mandato l'unico messaggio. Siccome noi abbiamo detto che è l'unico che ci è arrivato, ce n'ha mandato un altro dove ci dice: non vi demoralizzate, siamo poche ma buone. Angela, la stessa di prima. Noi ringraziamo Angela, sappiamo che siamo poche ma buone, in realtà noi sappiamo perfettamente che siamo tante di più, ok? E per concludere leggiamo il programma di iniziativa femminista, che si articola in 10 punti. 1. Tassare alla nascita tutti i bambini maschi. Tassarli in quanto maschi, perché siccome gli uomini a parità di incarico guadagnano il 25% in più delle donne, è giusto che rifondano la somma che usurperanno fin dal momento in cui vengono al mondo. 2. Risarcire le donne del 25% di salario sottratto e ristabilire immediatamente la norma equal pay for equal work, uguale paga per uguale lavoro. 3. Eliminare i nomi sessuati, dare ai bambini nomi neutri in modo che possano decidere loro da grande se si sentono maschi o femmine. 4. Obbligare gli uomini a stare a casa 8 dei 16 mesi concessi dallo Stato per la maternità e paternità. 5. Abolire il matrimonio e sostituirlo con un codice di convivenza civile che non faccia riferimento al genere e al numero delle persone coinvolte, un momento di perplessità solo per la poligamia. 6. Limitare la presenza degli uomini nei gruppi direttivi al 25%. 7. Stabilire per legge che nessuna donna deve percorrere più di 15 minuti di strada a piedi per raggiungere un servizio essenziale. 8. La donna, anche nell'ambito domestico, non deve fornire un silenzioso assenso all'atto sessuale, ma deve esplicitamente richiederlo. 9. Aprire un'inchiesta perché le ambulanze arrivano più tardi quando a patire un infarto è una donna, forse perché è molto più rari nelle donne, ma non si sa. 10. Abolire la monarchia. Vi risulta che in Italia ci sia qualcosa del genere? Comunque, la mala constatazione che scaturisce da ultimo è che la società patriarcale esiste dovunque e che tocca a noi sradicarla creando un sistema simbolico completamente nuovo, al di fuori dell'apparato sacrale di potere e di schiavitù delle donne su cui si fonda la nostra cultura occidentale e ogni altra cultura al mondo. Gli appuntamenti. Allora, una notizia importante secondo noi è che il 12, il 13, il 14 maggio 2005 a Bologna ci sarà un convegno che è organizzato tra le altre dal gruppo Fuori Campo, che è un gruppo lesbico separatista, e in collaborazione con la Biblioteca Italiana delle Donne, il Centro Documentazione Donne. Il convegno si intitola Audre Lorde Convegno, il valore della differenza, l'attualità del pensiero di Audre Lorde. È un convegno internazionale di studi sul pensiero di Audre Lorde e si terrà presso il Centro Documentazione delle Donne, Aula Magna, ex convento di Santa Cristina, in via del Piombo 5. Ora, se poi andate a vedere il sito del Fuori Campo, troverete tutto quanto in dettaglio il loro programma, e ci sembra una cosa assolutamente interessante. E il sito dovrebbe essere www.fuoricampo.org. Va bene? Parleremo ancora più approfonditamente di questo convegno nelle prossime trasmissioni. Altro appuntamento: Teatralie 2006, seconda edizione della rassegna di letture teatrali organizzata dall'Unione Femminile Nazionale. 6 appuntamenti per ascoltare storie scritte e interpretate da donne. Mercoledì 5 aprile, ore 19, corso di Porta Nuova 32, Milano. Perché le donne cantano il blues, di e con Betty Gilmore. L'appuntamento è alle ore 19, l'ingresso è gratuito. Seguirà un aperitivo con le attrici. Da ricordare che ci sono anche altri appuntamenti. Mercoledì 17 maggio, Voci di Donne Globali, e mercoledì 7 giugno, La Camera di Sangue e Altre Storie. E poi c'è sempre in aprile un convegno, scusate, sì, Arcilesbica di Bologna e Arcilesbica Nazionale, in collaborazione alla Cineteca di Bologna e l'Associazione Orlando, presentano il 5 e il 6 maggio 2006 Nitrate Bodies, omaggio a Barbara Hammer, che è una, cioè una rassegna cinematografica a cura di Elfi Reiter. Ora, noi abbiamo parlato di Barbara Hammer in alcune trasmissioni perché è stata ospite al Festival Internazionale del Cinema Lesbico di Bologna, Immaginaria, crediamo 3 o 4 anni fa. E noi la intervistammo con grande piacere, l'intervistatrice fummo proprio Caterina ed io. Ci aveva scritturato per una parte, sì, ci aveva scritturato per ci una aveva parte. Anche scritturato, poi vabbè, ci siamo vergognate, l'abbiamo noi più fatta. Siamo, esatto, siamo scappate. No, anche perché volevo ricordare ad Angela che non siamo poche ma buone, siamo tante e buone. Ecco fatto, esatto. Allora, detto questo, per il resto delle altre notizie, degli altri appuntamenti che per esempio sono su Roma, potete andare a vedere per esempio il sito della Casa Internazionale delle Donne, che è www.casainternazionaledellesdonne.org, e lì troverete una serie di appuntamenti, che alcuni dei quali sono sicuramente imperdibili. Per il resto credo che ci possiamo salutare? Sì, penso proprio di sì. Allora, a martedì prossimo. Sì, la diciamo, l'anticipiamo la sorpresina che ci abbiamo in programma per martedì prossimo, se riusciamo a realizzarla. Non sappiamo non se riusciamo sappiamo. A realizzarla. Allora, ci potrebbe essere una sorpresa, cioè potremmo insieme ad alcune donne commentare più o meno a caldo quello che è accaduto il 9 e 10. Vediamo, insomma, e per il momento, se no, andrà in replica, replica questa trasmissione. Intanto vi salutiamo, Lucilla vi dice ciao, a martedì prossimo. A martedì da Claudia. Ciao da Caterina e anche da Anna, almeno ciao dillo, non con la mano che siamo, non siamo in televisione. Ciao a tutti, a martedì prossimo. E voi? Ed è la voce nuova, la The Voice, The News Boys, per voi a Radio Onda Rossa e a una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto del martedì femminista e lesbico autogestito. Ciao! Ciao! Ciao. Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Avete ascoltato È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that.